Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, siamo qui alle 8.18 minuti. 8.18, diretta fino alle 9.30 in questo 26 luglio. Auguri a chi si chiama Anna Gioacchino, il papà e la mamma di Maria, e a chi si chiama Aristudo, sempre che ce ne sia qualcuno, Benigno, Bartolomea e Caro. Cosa è successo oggi nella storia? Tra le tante cose, iniziava la rivoluzione a Cuba nel 1953, nel 1970 una svolta clamorosa, la rivincita del sottoproletariato italiano su tutte le elite mondiali, perché Albano sposava Romina Power, quindi un grande idolo del mio quartiere operaio. Tutti tifavano per il piccolo terrone che si portava a casa la figlia del grande attore di Hollywood. Nel 2006 una svolta di carattere epocale, direi, perché veniva revocato lo scudetto alla Juve per Calciopoli. Nel giorno in cui praticamente abbiamo assegnato già il sesto scudetto consecutivo, in questi giorni. Chissà per quanti anni a venire. Però nel 2006 andò così. Succede questo. Come è noto, da sempre contestato, si assegnò all'Inter. Poi è andato all'Inter, esatto. Quindi proprio dalla padella alla brace. Va bene. Bacca. Allora, alle 8:20 minuti, cari ascoltatori, il numero di telefono ormai lo conoscete, 800 24 0024. Sai che, Oscar, vedete questi stipendi della RAI? A me una cosa dà fastidio, cioè quando si dice ma siamo sul mercato, e quando si parla di cifre di 200, 300 mila euro, 350, ma voglio dire, ma il distacco dal paese reale, quanto mi dicevi che guadagna in Germania un direttore di rete? Allora, in Germania ci sono 15 reti, perché la televisione pubblica statale in Germania è, oltre che nazionale, è regionalizzata, quindi ci sono 15 reti diverse, c'è un solo esponente che prende più di 300 mila euro. I direttori delle testate nelle 15 reti stanno sui 100-120 mila euro, che mi sembra uno stipendio molto buono. Questo per dire, cioè, il giornalista ordinario del servizio pubblico della Germania è in linea con le retribuzioni del metalmeccanico tedesco, anzi prende un po' meno, perché inizia con 2800 euro, il metalmeccanico ne ha 3200 in Germania, per dire, cioè qui invece le cose stanno così. Qui viaggiano 200, 220, 300, ma sono i prezzi in linea. Allora, col dei mercato. 95, dei 95 che in Rai sono oltre 200.000 euro, 61 stanno più di quel che prende, oltre la cifra che prende la Merkel, che sono 216.000 euro, 61 di quei 95 prendono di più alla sola RAI, e 18 sono 300.000 euro. E noi dobbiamo leggere sui giornali, cioè ogni giornale oggi c'è un pezzo, il gelo del Premier nei confronti della RAI. Ma lui sapeva tutto, li ha nominati lui, la legge l'ha cambiata lui. Siamo noi che apprendiamo adesso tutte queste cose, restiamo senza parole. Quale gelo, per favore? Il gelo è per l'aria condizionata, perché fa caldo, ma se esce dal palazzo, caldo e incazzatura, quella infatti che abbiamo noi. L'incazzatura c'è anche nei nostri ascoltatori, ma ho molto riflettuto su quello che ci ha scritto ieri, ci ha telefonato l'ascoltatore a dire, no, non è invidia sociale, è proprio rabbia e giustificata, quella che secondo me non va mai alimentata, noi siamo primi a non doverla alimentare. Ma non è una questione ad personam, non c'è logica in un'azienda in cui, ripeto, l'incidente del costo del personale sul totale dei costi di Sky è il 7,5%, per la RAI è il 38%. Di cosa parliamo? Cioè, non stanno sul mercato, perché infatti hanno troppe risorse garantite, ed ecco quello che succede. La cifra, per capire, che oggi è sui giornali, è che servono 250.000 canoni della RAI da pagare per pagare gli stipendi dei 94 più pagati in RAI. 250.000 canoni della RAI, 250.000 famiglie che in questi giorni proprio pagano il canone canone della Rai. C'è da dire che Oscar forse non è neanche casuale che ogni anno, proprio nel momento in cui si paga, in genere a gennaio, questa volta a luglio, il canone della Rai, escono le polemiche sugli stipendi. No, questa volta, adesso bisogna essere, su questo bisogna essere oggettivi, l'impegno, l'obbligo alla trasparenza è venuto con la riforma che ha voluto il governo, sì. Questo è vero. Prima la Rai si è sempre attendata su questa linea totalmente infondata, per la quale lei non diceva i compensi dei suoi dirigenti e giornalisti, perché per il momento siamo solo a questi, senza star e conduttori esterni, per privacy, malgrado sia un'azienda pubblica a tutti gli effetti, però lei sosteneva che per privacy non lo doveva dire. Anche qua, per non agevolare la concorrenza, ma concorrenza di che, se questa è gente tutta assunta a tempo indeterminato? Perché i dirigenti Rai devono essere e i direttori devono essere assunti a tempo indeterminato e non a tempo rispetto ai contratti e agli incarichi? Però guarda Oscar, leggevo Marco Mele sul Sole 24 Ore a dire che mentre la BBC è tutto trasparente, cioè perfino si sa se il direttore generale ha preso il treno da Londra a Birmingham il 26 febbraio spendendo 19 sterline, però nelle altre TV pubbliche non c'è questa grande trasparenza, proprio perché si dice beh, siamo, cioè ci sono, c'è la concorrenza, no? Quindi la BBC è proprio l'emblema. La BBC è in Germania, è tutto pubblico. Prendiamo esempio dai migliori, altrimenti sai, cioè, posso sempre dire c'è un elevato tasso di reati contro il patrimonio in questo paese, quindi rubo anch'io. No, non no, va bene, no. No. E allora? Però visto che hai citato la privacy, noi abbiamo chiamato Francesco Pizzetti, che insegna diritto costituzionale a Torino e alla LUIS ed è stato, come si suol dire, il garante della privacy. Buongiorno professor Pizzetti, eccoci qui. Buongiorno. Allora, questa storia della privacy è legittima, era legittima, non lo è più adesso? Ci spieghi un po'. Intanto non lo è mai stata. Già nel 97, con un provvedimento dell'epoca Rodotà, fu chiarito che gli stipendi della RAI erano conoscibili, con uno mio del 2010, che erano conoscibili in base a una norma dell'epoca, se pubblicati sul sito della RAI, come è avvenuto adesso. Della riforma del 2015 li ha resi obbligatori, quindi c'è una base normativa, non si può più assolutamente parlare di privacy che vieti la conoscibilità, anzi l'obbligo di rendere conoscibili questi dati. Ma perché perché si erano conoscibili quando lei era garante, sempre che la RAI decidesse? Non li hanno messi. hanno deciso, erano conoscibili, ma dovevano metterli. Non li hanno messi perché c'era una legge di carattere generale che rendeva pubblici i dati della pubblica amministrazione, poi la legge di conversione, poi si è cominciato a dire ma noi siamo una società partecipata. Poi la cosa più significativa è che c'è il tetto pubblico, il tetto dei 240.000 euro massimo per tutti i dipendenti pubblici, comprese le società partecipate, salvo quelle che sono quotate in borsa. Allora nel 2015 a maggio sono stati comprati 350 milioni di bond, col che la RAI è diventata una società che sta sul mercato. E quindi è saltato il tetto. Per fortuna la riforma però ha obbligato la pubblicità dei dati su cui sono stati messi. Il tema vero è che questa RAI è un mostro a due teste. Da una parte dice di essere è un servizio pubblico, e la Corte Costituzionale nel 2002 sciaguratamente stabilì che il canone doveva essere addirittura una imposta, neanche una tariffa. Un'imposta pagata da chi aveva il televisore, non da chi si serviva del servizio RAI, perché il servizio è pubblico, quindi da una parte è una società pubblica, quindi dovrebbe rientrare nelle regole della pubblica amministrazione, dall'altra, ecco l'altra faccia di Giano, no, sono una società che sta sul mercato, quindi se sto sulla società, se sto sul mercato devo avere la possibilità di retribuzioni maggiori, retribuzioni di mercato. Per di più, adesso con l'acquisto dei 350 milioni di bond, sono anche una società quotata in borsa. Insomma, c'è l'eterno problema che fin dall'inizio della Rai c'è stata, un po' giochi a fare il servizio pubblico in canone, un po' giochi a stare sul mercato e quindi le tutele delle società che stanno in base a quello che conviene, Oscar. Sì, si chiama cherry picking, mi scelgo la ciliegia che mi piace di più. Se mi serve di più essere pubblico, dico che sono pubblico. Se mi serve di più fare il privato, dico che sono privato. Tanto poi questo è il nodo Rai, Giannino, da sempre. Esattamente, da sempre. Esattamente. Neanche l'ultima riforma lo ha sciolto, perché anzi, stabilendo che il canone è pagato attraverso la bolletta elettrica dell'Enel, ha reso assolutamente evidente che è un'imposta e quindi la lotta all'evasione fiscale, quindi chi non paga il canone evade, fa evasione fiscale, più pubblico di così, e dopodiché dovrebbe valere il tetto normale degli stipendi. Però, professor poi Pizzetti, non c'è neanche la questione del mercato, perché una cosa è il mercato dello showman, del conduttore, una cosa è il mercato del normale dirigente organizzativo. Moltissimi di questi dirigenti hanno attività sostanzialmente organizzative, molti anche addirittura di tipo amministrativo. Sì, molti addirittura, ma questo è un altro problema ancora, sono senza incarico, non fanno nulla, questo è un altro problema ulteriore. No, questo è il grande problema anche della pubblica amministrazione, per cui il dirigente viene messo a disposizione, ma lo stipendio viene pagato. Questo è il problema che riguarda, per esempio, magistrati della giustizia amministrativa, in cui e le retribuzioni vengono mantenute anche se hanno un altro incarico, insomma. Però il professore, lei, è molto complicato. È chiaro, lei ha citato la questione degli, come dire, gli showman, o comunque i conduttori, gli esterni, perché il dibattito per molti è a questo punto comunque bisogna... anche di quelli sono conoscibili le retribuzioni, ecco, conoscibili. È stato un mio provvedimento sul contratto di uno dei più famosi showman della RAI, che aveva appunto invocato problemi di privacy, e noi abbiamo negato. Chi era? Fazio o Bruno Vespa? Vada a vedere i provvedimenti del garante, non le costerà grande fatica. E lì di nuovo ero io presidente, stabilimmo che no, erano conoscibili, cioè la commissione di vigilanza aveva chiesto di essere messa a conoscenza e non c'era motivo di privacy che potesse impedire la però finché non fanno questo atto per rendere pubblici, ma noi abbiamo sempre detto, visto che prende il canone addirittura qualificato come imposta a carico di tutti coloro che possiedono un televisore, anche se non vedono le tue trasmissioni, tu sei un servizio pubblico e quindi la protezione dei dati relativi all'uso del tuo denaro viene meno. Questo dal 97 addirittura. Poi 2000. Abbiamo solo nel 2010 detto, si è pubblicato sui siti della RAI. Della RAI, cioè manca l'atto, certo, manca l'atto però volontario della RAI, se non lo fanno. Però vedete adesso, io poi mi inchino di fronte al professor Pizzetti, che ho incontrato quando ero giovane nella università, 30 l'esame, non sto inventando. Detto tutto questo però, quando si tocca con mano questa tendenza diuturna nel tempo della RAI a non ottemperare neanche agli inviti formali che gli vengono dalle autorità sulla sua trasparenza, tu devi capire, Alessandro, che la mia battaglia per anni contro canone RAI, che è una tariffa annegata come tassa di possesso in un'altra tariffa, perché oggi è così, devi capire che non può essere confusa come la battaglia, l'invito all'evasione fiscale, è l'invito ad aprire gli occhi sulle contraddizioni unilaterali che lo Stato ci infligge con questo sedicente servizio pubblico. Le condizioni di autoreferenzialità di questi stipendi costruiti nei decenni gridano vendetta. Il fatto che tutti i corrispondenti dall'estero siano sopra i 200.000 euro non ha eguali negli altri paesi. A Londra ce ne sono due da 240.000 euro. E sapete benissimo, cari ascoltatori, cari colleghi della RAI, quanto di queste carriere si debbano ai partiti, perché li ho nominati persino io quando ero capo ufficio stampa di un partito, quindi so di cosa parlo. Allora, ed è per questo che poi ho strappato tutto e me ne sono andato da quel mondo. Scusate, invece no, bisogna farsi la morale, sentirsi dire che quello è il grande servizio pubblico, che chi obietta è un evasore indegno che non vuole rispettare le regole civili delle comunità e ottemperare i debiti. E noi vogliamo, io vorrei semplicemente un po' più di rispetto e trasparenza, tutto qua, e non vedere una tassa di possesso come scusa per una tariffa annegata in un'altra tariffa, visto un referendum che c'era dagli italiani. Però Poi, per carità, se voi dite che questo bisogna stare zitti e pagare, staremo zitti e paghiamo, però l'amarezza, perché è ingiustificato questo organigramma, questa è la mia opinione. Tra l'altro, nel ringraziare ovviamente il professor Francesco Pizzetti che è stato con noi, ci sono tanti ascoltatori, vediamo Pietro ci chiama da Biella sul tema, immagino Rai, quello che fa più arrabbiare. Pietro, buongiorno. Sì. Pronto, buongiorno. Eccoci. La domanda è molto semplice, adesso che sono usciti gli stipendi aspetteremo la prima settimana decisiva perché decidono di abbassare gli stipendi? Non li abbasseranno. Appunto, quindi purtroppo cosa serve tutto questo? Questa è la domanda. Cosa serve? Intanto è un atto di trasparenza, visto che sono soldi pubblici, e quindi la consapevolezza da parte dei cittadini che pagano è il primo passo, no? Per far parte di una società, in una comunità. Poi si stupiranno che la gente protesta e diranno che è una protesta populista. Invece, capisci, si stupiscono loro. È per questo che tenevano tutto all'oscuro. Perché ovviamente si rendono conto, in fondo, che è ingiustificabile agli occhi di milioni di italiani quel livello lì, quella progressione lì di retribuzioni rispetto alle retribuzioni medie italiane. È ingiustificabile. Loro lo sanno per primi. E però ci stupiranno che poi la gente si arrabbia e magari certo. Botta qualche roba di populista, come dicono loro. Dopo Pietro da Biella, di cui capisco però lo scoramento, dire vabbè, ma poi cosa cambia? Cioè, è giusto ed è legittimo anche essere scoraggiati di fronte all'idea di dire ma tanto non cambierà nulla, però è giusto che si sappiano le cose in un'azienda pubblica. Ma perché siamo abituati a subire, questo è il punto, siamo abituati a subire. Ripeto, non ci sarà nessun blocco del Palazzo Rai per una settimana, ecco, e quindi loro avranno ancora di più il senso dell'impunità. Non per personalizzare, ma oggi sul Fatto Quotidiano Anna La Rosa, 240.000, ex direttore del Rai Parlamento, dice sì, da un anno è vero non lavoro, ma ho seguito la campagna di Hillary Clinton e ho scritto su riviste scientifiche smaltendo un anno di ferie. Ma del resto, scusate, cambio un secondo argomento. È bello smaltire un anno di ferie a 240.000 euro, lo propongo anch'io al direttore del personale, adesso vado su, alle 9:30 vado su, faccio questo cambio, smaltisco un anno di ferie che non ho, cioè, in cambio di 240.000 euro. Fare un anno di ferie moltiplicandoti lo stipendio. Io sì, perché esatto, ti augurerei esatto, un anno, vero? Di moltiplicando. Perché, scusa, pensateci un secondo, cari ascoltatori, perché non è così solo sulla Rai. Cosa leggete oggi sui giornali? Leggete che improvvisamente sui giornali è arrivata la notizia che il MEF è riuscito a convincere le casse previdenziali private a dare mezzo miliardo ad Atlante per rilevare i crediti deteriorati delle banche. Cioè un'attività molto rischiosa perché verrà fatta a un prezzo non di mercato. Allora, la cosa è così. 2 anni fa questo governo massacra di tasse le casse previdenziali, cioè il secondo pilastro della previdenza in un paese scassato dove abbiamo fottuto i giovani che non avranno le pensioni, invece di incentivarlo il secondo pilastro li abbiamo tartassati aumentandogli l'imposta al 26%. 2 anni dopo lo Stato va dallo stesso secondo pilastro che ha tartassato e dice se vuoi che ti abbassi la tassa che io ti ho messo, cioè che diminuisca il taglieggiamento, mi dai il tuo patrimonio perché mi serve per un impiego che non è prudenziale, perché i fondi previdenziali devono avere grande cautela nell'utilizzare i soldi. Lo Stato decide dove si piglia i soldi, dice se vuoi che io ti abbasso la tassa che tu hai alzato devi fare così. Guardate che, come vedete, il metodo Rai è un metodo molto diffuso da parte dello Stato. Allora c'è anche Antonio che ci chiama da Piacenza, buongiorno. Buongiorno a entrambi, il suo ospite che ho visto che avete liquidato, tra virgolette. Volevo dire una cosa a Orfini. In che senso liquidato? No, non l'abbiamo liquidato. So se è ancora... No, non è più collegato. Non è più con noi, ma non l'abbiamo liquidato. L'abbiamo ringraziato e salutato. Forse ancora in ascolto, ma No, volevo dire una cosa a Orfini, che adesso io sono l'ultimo degli ultimi, cioè proprio la categoria, sono l'operaio generico, quindi... Ma non però, è l'ultimo se... degli ultimi. No, per dire che c'è una cosa, sono riuscito a saperla anch'io, e cioè che Orfini era presente l'anno scorso, non era presente alla votazione quando il Movimento 5 Stelle presentò il tetto massimo ai dirigenti, e lui non era presente in aula a votare, tra l'altro Partito Democratico ha votato contro, queste cose qua le so io, che non sono nemmeno io a terza media, se le so io, cioè lui che va in televisione a dire, no, esatto, se lui va in televisione a dire, riempirsi la bocca che non lascia questa battaglia al Movimento 5 Stelle, mi viene da ridere. Io chiamare onorevole Orfini, onorevole, è una vergogna per l'Italia. Vabbè, Antonio, uno che va in televisione a dire una cosa del genere, questo l'ha non detto. Era presente in aula. Tenga conto, Antonio, tenga conto che secondo me lo scandalo maggiore non è solo il tetto dei 240.000 euro, non è solo quello, che in alcuni casi, ma non in tantissimi, è superato, saranno in una decina di casi. Il problema è proprio sono le retribuzioni, anche quelle da 220, 205, 210, 220 che stanno sotto. Però Antonio, finisca. Ma il tetto era qualcosa, no? Il tetto sì, è qualcosa. Era già qualcosina, però lui non era neanche presente. Però poi parliamo. Ci ha spiegato Pizzetti perché è saltato le motivazioni. Che lo hanno aggirato attraverso un'obbligazione. Esatto. Hanno messo un'obbligazione e hanno fatto Marameo. Antonio, però concludo. Cavillo PD non lo chiama, Cavillo PD. Lo chiama così quella norma dove si può sforare. Un'altra cosa, poi chiudo, sì. Visto che l'altro argomento è Salvini che ha portato la bambola al comizio di Soncino, sì. Parla un altro onorevole, Salvini, che ha avuto un ex moglie, un'ex fidanzata e una fidanzata, tutte e tre lavorano per noi italiani, una al comune. Consigliere comunale, l'altra alla regione e l'altra dei Isoardi che aveva già un lavoro in Rai. Giustamente, vabbè, posso dire una cosa? No, lei dice che è l'ultimo degli ultimi, ma secondo me lei deve fare il nostro mestiere. Lei dice operaio generico, la terza media, ma dimostra di saperne più di tutti noi messi insieme. Complimenti. Comunque, dobbiamo andare in pubblicità, Oscar. Torniamo, è 800 24 00 24. Parliamo anche di altri temi, ma chiamateci. Caro Oscar, eccoci qua, le 8:40 minuti, il nostro operaio specializzato, generico. Dunque, ci comunicano che in questa notte altri due dirigenti Rai hanno superato il tetto dei 300.000 euro. E chi sono? Scatti automatici, non avete il diritto di saperlo. Ecco, va bene, privacy. Sono conoscibili, era bellissima la definizione del professor Pizzetti. Sono conoscibili, però loro non li pubblicano. Sono conoscibili. È un diritto teorico il cui esercizio è negato. È l'Italia meravigliosa del diritto amministrativo. È una nuova categoria splendida, sono conoscibili. Ci chiama Valerio da Treviso, buongiorno. Buongiorno, salve. Come va? Allora, io sarò uno di quei tanti milioni di evasori che non pagherà la tassa di possesso dell'apparecchio TV. Tassa incostituzionale e contro l'Europa, perché l'Europa sanziona l'Italia per queste tasse, però l'Italia preferisce pagare tranquillamente la multa piuttosto che togliere queste balzelli assolutamente medievali. Ricordiamo una cosa, la RAI è sempre stata il carrozzone dei partiti e il bancomat dei partiti. Ora che qualcuno mi imponga di pagare una tassa di possesso su un apparecchio che è di mia proprietà, io dichiaro la sovranità individuale e mai e poi mai pagherò questi soldi, questo canone. Quindi lei non lo paga. Assolutamente, Valerio. I cittadini italiani a non pagarlo. Grande Valerio. Va bene, grazie Valerio. Secondo me bisogna dichiararlo. Se si dichiara, diventa un pezzo di una richiesta di reimpossessamento di diritti. Allora, io sono favorevole a questo tipo di filosofia. In pubblico, non si tratta di perseguire vie private. In pubblico bisogna autodichiararsi. Allora, però, caro Oscar, mentre invitiamo ovviamente i cittadini, gli ascoltatori a chiamarci ancora, 800 24 00 24. Dobbiamo raccontare questo spaccato d'Italia che ieri è apparso sul Corriere della Sera. Quest'altra cosa che ci rassicura sulla trasparenza della pubblica amministrazione, non ti pare? Sì, esatto. E tra l'altro per aiutarci c'è una vecchia conoscenza, Alfonso Celotto, che adesso non sappiamo mai se chiamarlo come Alfonso Celotto oppure come... No. L'alter ego. Vabbè, l'alias. L'alias. Professore, buongiorno. Ciro Mendola in persona con voi. Buongiorno. Qua, lo spirito dell'eterno ritorno, direttore della Gazzetta Ufficiale, ricordiamo, con la più viva cordialità, ovviamente sempre. L'uomo che più conosce la burocrazia dal di dentro e dal di fuori e che ci aiuterà a capire insieme a un avvocato, l'avvocato Stefano Nespor, che salutiamo, buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. La notizia che è apparsa ieri sul Corriere della Sera, che sintetizzo così: supera il test ma lo annullano perché è troppo difficile. Caro Oscar, c'è una candidata che ha vinto una gara per un'assunzione a un'ASL di Pavia, esatto. E lo annullano perché è troppo difficile, e tutti hanno avuto il dubbio. Eh certo, perché non l'ha vinto quello per cui era stata ordinata la gara. E quindi ha detto: oh no, ti abbiamo fatto le domande troppo complicate, solo tu hai potuto rispondere, non va bene. No, al diciamo, altro che meritocrazia, appunto, una signora che è rappresentata poi dall'avvocato Stefano Nespor, che è con noi, vince questo concorso all'ASLA di Pavia su 64 candidati. Ma alla fine che succede, avvocato Nespor? Cioè, la prova è stata annullata perché? Qual è il motivo? Non ce lo spieghi in burocratese, ce lo dica in tre parole. In tre parole. Sì, in realtà è stato mantenuto il concorso, ma si è deciso di ripetere le prove perché erano troppo complesse. Troppo complesse? Ma chi lo vince, chi lo deve vincere? Ah, sì, il testo dice per eccessiva complessità. Eccessiva complessità. La candidata che riservatamente era sostenuta da qualcuno che non conosciamo non è stata all'altezza, si ripeta. Cioè, spregia qualsiasi, diciamo, meritocrazia, cioè non è che è troppo brava la sua candidata, nel senso quella che lei difende, è troppo brava. Poi ha un difetto: non conosce le persone giuste, conosce le risposte giuste. Questo ma che crede di essere un concorso serio? Questo è Oscar Giannino, che è malizioso, che pensa subito. No, ma avvocato, no, ce la spiega adesso, stiamo celiando, però la questione è seria. Ma com'è possibile annullare una prova e rifarla perché le domande sono state troppo complesse? Che vuol dire? Ma ecco, adesso sta uscita anche una specie di un comunicato della di Pavia, che spiega, in cui il principale tema è: questo non era un concorso, perché noi abbiamo ricevuto una graduatoria dall'ufficio del lavoro, e in effetti c'era una graduatoria, perché l'ufficio del lavoro manda una graduatoria indicando quelli con più carichi familiari, più anziani, cioè tutta una serie di dati. Mm. E la povera candidata vincitrice era 36esima. Quindi a seguito di con questa graduatoria è stato fatto, poi hanno nominato una commissione giudicatrice e hanno sottoposto tutta una serie di test e di prove per vedere chi tra questi era l'idoneo. Quindi adesso forse non era un concorso in senso proprio, ma era una selezione sulla base della quale hanno trovato l'idoneo, e l'hanno trovato perché ma è l'unica che da 36 secondo questo comunicato da... Però avvocato, ci spieghi meglio, significa che eventuali valutazioni, in questo caso attraverso questa commissione di valutazione di maggiore idoneità rispetto a una graduatoria i cui posti sono già fissati, è inaccettabile. Cioè vale solo la graduatoria ed è inutile a quel punto fare... Beh, a quel punto era inutile fare tutta la fatica della commissione. Però allora è inutile che ci spieghino che poi bisogna avere il meglio del meglio. Esatto. Hanno fatto delle prove una serie di prove di idoneità. Tenga presente che la complessità era saper usare Word, saper mandare un'email archiviata. Capito, insomma, non stiamo proprio parlando Excel, picco della mia... Il primo della graduatoria mandata ha detto: io non so usare Excel. E così pure il secondo. Allora, peccato, non era il suo concorso. Appunto, infatti, non sapeva usare Excel e quindi è troppo complicato, bisogna rifarlo. E quindi non l'hanno ritenuto idoneo, la commissione giudicatrice non l'ha ritenuto idoneo. Qui una delle requisiti non ce l'aveva. No, qui avvocato ci deve aiutare Ciro Amendola o Alfonso Celotto, di cui voglio ricordare, non ci credo, ma è vero, insomma, il libro Storie di ordinaria burocrazia. Allora, ci aiuti un po' a capire, dottor Amendola, com'è la questione, com'è possibile una questione del genere? Ascoltando questa storia, a me verrebbe veramente da dire, per come è raccontata, no, che in questo caso la burocrazia supera la fantasia. Perché raccontata così è veramente difficile da spiegare ai sensi dell'interesse pubblico, del buon andamento, dell'imparzialità, della meritocrazia, di tutti questi principi e valori a cui si ispira l'attività della pubblica amministrazione. Perché raccontata così non è una di quelle storie che noi raccontiamo spesso, di quei pasticci dovuti a sovrapposizioni delle leggi, a leggi che si incastrano, si incrociano, non si aprono e quindi si applicano male, no? Ma qui è proprio la pubblica amministrazione che prende una strada, effettua giustamente una prova, un concorso, e poi a un certo punto si rimangia la parola. La pubblica amministrazione può sempre cambiare idea, no? Perché può dire: sì, è passato un anno, non mi serve più, ne servono due, me ne servono cinque, ma la motivazione è la motivazione esprime, è questa, no? La posso leggere, si annulla tutto perché dal comunicato: le domande formulate dalla commissione esaminatrice nell'ambito delle tre convocazioni non rispettano in termini di eccessiva complessità le indicazioni del bando per quanto attiene alle prove di idoneità in esso contenute, con conseguente violazione della lex specialis che il bando medesimo costituisce. ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Mi viene in mente, per riderci, sulla famosissima scena lì del film di Nanni Loi, del Dentone, no? Quando la commissione vuole apposta fare domande difficili per bocciare il candidato e non ci riesce. Qui siamo all'esatto opposto, perché molto probabilmente poi la malizia è facile su un caso del genere, dice, ma qual è l'interesse pubblico a ripetere il concorso? Poi attenzione, con gli stessi candidati, non è da quello che si racconta, io annullo il concorso, riapro il bando e quindi forse mi arriveranno nuovi candidati. Io resto su quei 64, quindi la malizia è facile, probabilmente non mandava bene quello che ha vinto, perché un vincitore c'è. Vincitore che ha fatto ricorso adesso, avvocato Nespo. Ha fatto ricorso? L'ha fatto perché era una roba di tre giorni fa. Lo farà. Sì, sarà fatto. Certo, io devo dire che ho scritto e spero che ci sia un piccolo ravvedimento e si rendano conto e revochino questa ridicola delibera, quindi ho ancora questa speranza. Senta, ma ce lo dica fuori dai denti, perché Oscar l'ha fatto capire, ma il sospetto è che è un concorso nel quale doveva vincere qualcuno di già preordinato e non era la sua assistita e quindi... Ma non sono in grado di dire, sicuramente non so se c'era qualcuno, certamente non volevano lei, questo mi sembra l'unico dato chiaro, nonostante che lei avesse già fatto dei periodi all'ASL Pavia svolgendo questa attività senza nessun problema, anzi lei era quasi convinta che il concorso l'avessero fatto per eliminare la sua precarietà, che adesso crea, come sapete, tutta una serie di problemi di risarcimento del danno e così via. Sì, sì. Invece no. Però io sarò, come dici tu, malizioso. Fatto Quotidiano ha avuto un'altra conferma di quello che sappiamo. Ieri ha tirato fuori una busta che era stata recapitata, consegnata alla redazione nel novembre del 2015, su chi avrebbe vinto una certa gara in una certa ASL lombarda per la fornitura di un apparecchio necessario a cure specializzate. E hanno azzeccato. Ieri nota il risultato della gara e torna il nome dell'azienda, il macchinario. Giocarli nelle piattaforme, guardate, gioco azzardo legalizzato. Purtroppo non si tratta di essere maliziosi, di conoscere abbastanza bene come funziona ancora, purtroppo, in vasta parte, il meccanismo delle procedure di cosiddetta evidenza pubblica nella pubblica amministrazione. Ci chiama Antonio da Milano, l'ascoltatore. Antonio, che ci vuole dire? Sì, buongiorno a tutti. No, io dicevo che Giannino non è malizioso, proprio è la realtà. Quello che è successo a mia moglie, esattamente. Io non entro troppo nei dettagli perché altrimenti non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma... Un paio d'anni fa a Lodi è stato fatto un concorso nella LASL e grazie a una conoscenza personale, mia moglie conosceva questa una dirigente che lavora lì e gli ho detto: Cristina, non lo faccia il concorso, perché è il concorso fatto per assumere un precario che lavora da 12 anni al servizio e è necessario regolarizzarlo. Così è stato. Allora uno davanti a queste cose però veramente rimane... stucco, perché tutti dicono sì, i concorsi sono falsi, sono truccati, e invece ma così. Poi vederlo che è così e vederlo poi male. Sentirlo sulla propria pelle, immagino, fa certo, male. È certo. Però Celotto o dottor Ciro Amendola, qui la questione cioè come fa la pubblica amministrazione così sempre burocratizzata, così ben specializzata, poi a stabilire dei concorsi nei quali si sa già il vincitore? Questa è la questione. Perché questa è quella vecchissima questione sull'utilità del concorso, no? Perché tradizionalmente prima i concorsi non si facevano, si usava la chiamata diretta, e la chiamata diretta era ovviamente solo una modalità per chiamare troppo spesso amici, parenti, conoscenti, figli e nipoti. E allora ricordiamo tutti i prepensionamenti per far entrare i figli, cose che fino a 40-50 anni fa erano ritenute nell'uso comune. E poi, malgrado la Costituzione lo prevede dal 48 il principio del pubblico concorso, perché è scritto in Costituzione, articoli 97-98, a un certo punto si sono cominciati a fare i concorsi, perché i giudici hanno cominciato ad annullare queste procedure false, le chiamate dirette, però ci si è accorti che troppo spesso il concorso come principio stona con questa mentalità che dove invece... Alle volte lo posso anche capire, no? Proprio per essere non maliziosi, dire ma io preferisco Oscar perché lo conosco, lavora bene, già sta qui, chissà chi arriva, no? Ci può anche stare, però non nella pubblica amministrazione, perché nella mia gelateria io mi prendo chi mi pare, no? perché mia è privata, nella pubblica amministrazione, visto che è di tutti, servirebbe il pubblico concorso. Sì. E quindi però, serve cambiare mentalità. Però resta il fatto, dottor professor direttore, che di fatto noi abbiamo avuto nel il concorso, che è diventata il motivo per cui tutta la PA non è soggetta neanche alle riforme del mercato del lavoro, all'equiparazione automatica del mercato del lavoro, perché si dice no, è proprio il principio costituzionale della selezione tramite concorso quello che è il presidio confermato dalla Corte dell'irriducibilità del lavoro pubblico rispetto a quello privato, però certo, poi di fatto, di fatto lo Stato di volta in volta ha immesso un ruolo pubblico centinaia di migliaia di dipendenti pubblici senza concorso, ope legis, nella scuola e nell'università, sì. Andiamo avanti, dai tempi del ministro Gui a fare una cosa simile, quindi sa, è un concorso ma, diciamo per modo di dire. Sì, ma diciamone un'altra, che poi quando si fanno i concorsi, sono concorsi spesso biblici, prendiamo non so, il concorso in magistratura che si fa ogni anno, il concorso in magistratura fanno domanda a 15.000 persone, se ne presentano 6.000, devi correggere 18.000 temi, quindi diventa una macchina gigantesca. E poi il problema vero è quello, il concorso in magistratura per come è strutturato devi fare tre temi, no? Uno di diritto privato, uno di diritto penale e uno di amministrativo, non è idoneo a selezionare una persona capace a fare il magistrato. Oh, meno male che lo dice lei. Ma solo uno studioso, perché io dico come studia bene, come conosce bene l'usucapione, il dolo eventuale, ma è capace a fare quel lavoro? Perché il magistrato è un lavoro che ha anche un approccio giudicare psicologico. La vita, la libertà e la proprietà delle persone. Quindi vedi, il concorso spesso è anche inutile rispetto allo scopo, cioè costa tanto e ti seleziona soltanto un bravo studioso, perché noi pensiamo che il bravo studioso debba essere il criterio del merito. Quindi andrebbe profondamente ripensato la modalità con cui selezionare veramente. Tra l'altro una nostra ascoltatrice ci scrive dicendo, leggendo il bando di quel concorso a Pavia c'era proprio esplicitamente scritto Excel, conoscenza dell'Excel, e quindi non c'è neanche questa scusante. Ringraziamo Alfonso Celotto, ringraziamo l'avvocato Stefano Nespor, che quindi farà ricorso per questo concorso un po' strano. Il ricorso del concorso. State con noi e chiamateci, e continuiamo dopo il giornale radio. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Ci si chiede a questo punto a chi servono gli stress test alle banche europee se non agli speculatori. Il quesito è d'obbligo perché mentre attendiamo ufficialmente le 22 di venerdì per sapere quali delle banche europee sotto esame, sono 53 banche del vecchio continente, di cui 5 italiane, per il totale del 70% delle banche dell'Unione Europea, in realtà già da ieri sono circolate moltissime indiscrezioni e anche molto dettagliate. Secondo queste prime anticipazioni, Intesa San Paolo avrebbe brillantemente superato gli stress test, così come il Banco Popolare e UbiBanca, a un livello leggermente più basso ma ancora soddisfacente Unicredit, e invece a non avere superato gli stress test sarebbe stato il Monte dei Paschi di Siena, come ampiamente prevedibile e come ampiamente sottolineato anche ieri dalla borsa, che ha fatto calare il titolo oltre l'8%. Gli stress test, ricordiamolo, sono un esercizio teorico sulla capacità che avrebbero alcune banche di resistere a uno scenario apocalittico. La battuta è ovvia: di fronte a uno scenario del genere il problema non sarebbero alcune banche ma la tenuta stessa dei paesi europei. Ma soprattutto ci si chiede perché permettere con continue fughe di notizie agli investitori di speculare quando in discussione non è la tenuta della banca né la capacità della banca di pagare i suoi fornitori. Insomma, se questi test sono fatti per gli speculatori vanno benissimo, se sono fatti per far capire qualcosa in più a noi normali cittadini e correntisti ancora non ci siamo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui in diretta fino alle 9.30. Oggi, domani, giovedì, venerdì. Poi basta, poi ci fermiamo. Ci sono i colleghi. Non si sa mai. Sant'Anna e San Gioacchino, fai la trasmissione con Giannino. Sant'Anna e San Gioacchino, fai la trasmissione del mattino. Esattamente, verranno loro direttamente a fare una trasmissione paradisiaca. Sant'Anna San Gioacchino, Maria Teresa da Torino, dalla, davvero, dalla provincia di Torino. Vedi? Buongiorno. Vedi? Buongiorno. Spero che mi possiate sentire perché è disturbata la linea. Benissimo, sì. Io dicevo questo, perché non boicottare tutte le reti RAI? No? Questa è una cosa vergognosa. Sì. Abbiamo Sky, abbiamo tutte le altre reti per un bel... Proprio, io sono veramente, ho 76 anni, sono nipote di una medaglia d'argento al valore, ma sono veramente così, come dire, proprio disgustata per questa, diciamo, prevaricazione da parte di queste persone. Perché cioè, con la povertà è un disastro. Però, Maria Teresa, mi scusi, no, io devo dire, accogliamo il suo invito, io non lo accoglierò praticamente, nel senso, non vedo perché boicottare i programmi Rai se sono interessati. Sì. Però, Maria Teresa, guardi che, certo, la differenza è che questa è una TV pubblica, ma credo che anche a Mediaset ci siano contratti di questo tipo, anche magari... Sì, ma è diverso, perché almeno non pago il canone. Ah, adesso per questo, questo mese qui ho già pagato 70 euro, no? Ma è perché è una presa in giro, io voglio dire, anche a me piace molto, io ascolto Rai Scuola, Rai Storia e Rai 5, no? Sì. Che mi piacciono tantissimo, ma ci rinuncerei, perché questa è veramente una presa in giro, ed è una cosa vergognosa, perché qui cioè, è mancanza di etica, di deontologia. Lei, quindi lei lo lega al canone, vedi Oscar che andiamo sempre lì, no, ma è chiaro, ma Maria Teresa lo lega, questa è la differenza. Scusami, anche tra... qua, vediamo nelle altre parti d'Europa come funziona la disciplina del canone di fronte al servizio pubblico, perché non è vero, altrove le soluzioni ci sono, basta volerle adottare. Per esempio, in Germania dopo le 20 zero pubblicità, sai qual è il limite quotidiano nelle 15 reti pubbliche del servizio televisivo in Germania di pubblicità? 20 minuti in tutto il giorno, e dopo le 20 zero. Nella BBC le reti che sono sottoposte hanno la Royal Charter, cioè sono la convenzione che esercita un servizio pubblico, pubblicità zero, solo canone. La pubblicità è riservata alle reti BBC che sono fuori dal servizio pubblico, tipo BBC World. Allora, come vedi, negli altri posti se si chiede un canone non si pretende di non dare di pubblicità anche in contro i privati come fa la Rai. Ecco. Ha ragione la nostra ascoltatrice di Torino. Che, però no, io non la seguirò sul boicottiamo i canali. Questo... Cioè, su motivi di protesta civile ce ne sono. Ecco. Enrico ci chiama da Milano. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Ma senta, io credo che il nostro Presidente del Consiglio, della quale tante volte non condivido le sue opinioni, però penso che abbia una vita un po' più intensa di qualche presidente di qualche ente o di qualche dirigente Rai. Io non so lo stipendio che prende Renzi, però non credo che prenda 300.000 euro. Non ne prende neanche 200.000, no. Se per questo. Allora, ne prende io di meno. Penso che dovrebbe essere applicata la regola che c'è negli Stati Uniti, per cui il presidente, nella pubblica amministrazione non si devono superare lo stipendio del presidente ma tanto qua mettiamo il tetto nel senso che direbbero nella pubblica amministrazione italiana il tetto è quello il presidente si dice, cioè 400.000 dollari, tutti a fregarsene mai. Sì, sì. Però, oppure farebbero subito un decreto urgente per triplicare lo stipendio del presidente del consiglio per adeguarsi poi. No, prego, dica. Sintomo di un paese serio, perché se uno vuole farsi pagare 1 milione di euro, vada nel privato, trova qualcuno che gli danno queste cifre, punto. Ma non si può chiedere sempre all'erario, quindi ai cittadini, di regalare sempre soldi a questa gente che oltretutto non timbrano neanche il cartellino. Il presidente di un consiglio di amministrazione forse inizierà la sua giornata alle 10 di mattina, farà qualche convegno, farà qualche riunione di meeting, di staff, e poi fa le sue sempre... Cioè non stiamo parlando di persone che sono impegnate direttamente sul campo come fa un dirigente di un'azienda. Stiamo parlando di rappresentanti così, che tante volte non hanno neanche un'esperienza in un'azienda. Parliamo anche di giornalisti, di colleghi, insomma, caporedattori, eccetera. Poi le cifre, ripeto, non deve essere secondo me una caccia all'uomo, e questo è sbagliato, come fa scattare l'invidia sociale, però le cifre ci sono. Però insomma, ci deve essere un criterio rispetto al reddito medio mediano di un paese. Quando abbiamo detto all'inizio della trasmissione che si assumono i giornalisti alle reti pubbliche tedesche a una retribuzione inferiore a quella dei metalmeccanici in Germania. Quello è un criterio, capisci? Mentre qua ci sarebbe una rivolta se fosse così. E invece lì il criterio c'è. lì il salario medio dei metalmeccanici, che è superiore ai 3.500 euro, va parametrato anche a quello il fatto che poi i direttori non vanno oltre i 100.000 euro. Non so se è chiaro. Da noi, no. Urra, chiedono il tuo basta, basta, basta. Sul canone, ma poi dicono che esagero, poi dicono che esagero. Ma tanto ce l'abbiamo registrato, se vuole. Francesco ci chiama dalla provincia di Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo fare una domanda che sia didattica per me, perché non mi occupo di tutt'altro e alcune cose non le comprendo. Vediamo. Non so se è stato già trattato questo argomento, ma potete far capire se c'è una legge dello Stato che pone un limite? Qual è il meccanismo per il quale questo limite viene superato? Ah, i 240.000 euro. Prima ce l'ha spiegato il professor Pizzetti alle 8.20, Oscar. Anche nella legge che col governo Renzi fissava il tetto dei 240.000 e esplicitamente posto come condizione di deroga quella delle aziende, sia pure a controllo pubblico, quotate, quindi per esempio Eni, Enel, Enel, Finmeccanica e così via, quelle sono a controllo pubblico ma sono quotate, quindi in quel caso c'è l'eccezione, piene retribuzioni di mercato, nonché quelle aziende a controllo pubblico che pur non quotate, la RAI non è affatto quotate, tuttavia emettono obbligazioni trattate sul mercato. Questa norma fu studiata ad hoc per la RAI, che infatti si precipitò ad emettere un'obbligazione quotata sul mercato e si beccò l'esenzione. E per questo c'è l'esenzione dal non tetto, si capisce, no? Perché l'emissione di un'obbligazione dovrebbe rendere a quel punto come se fosse una quotata. Non lo è, non ha la minima intenzione di farlo, quindi... Capito, Francesco è ancora con noi, questa è la motivazione per ho cui... capito venire solo più rabbia già, esattamente certo, però lei noi la rabbia non ne rispondiamo, lei ci ha chiesto la spiegazione e la spiegazione ai sensi di legge è questo. Però Francesco dalla provincia di Catanzaro la ringraziamo per la precisazione che abbiamo potuto rifare. Caro Oscar, tu quanto pensi di vivere? Non molto. No dai, ma perché? Perché non voglio dare questa soddisfazione al fisco italiano. Ma dai, adesso uno che vuol morire per non pagare le tasse, questa non si è mai sentita. No, scusa, io voglio campare abbastanza perché i miei figli abbiano all'estero, in un altro ordinamento, tutto ciò che consente loro di vivere. Vai in un paradiso fiscale. E a quel punto, dopo che li vedo in regola, speriamo che poi, ma secondo me, magari nascono o crescono comunisti statalisti, a quel punto dovrò accettarli, perché è ovvio che finirà così. Ma altrimenti io rimango qua l'ultimo periodo, senza niente, con la stifugine non ti pago. O se no vai in un paradiso fiscale, vai no, in un paese paradiso dove... fiscale non c'ho. Io la mia battaglia è aperta perché io credo nel fatto che con meno tasse questa Italia può crescere, dare lavoro a mucchio di gente. Ma io ti ho chiesto, fino a che età pensi di vivere, perché dobbiamo parlare di questo tema. Sapete, io non sono sardo, così ti lancio la palla. Non sei sardo. No, ma perché è incredibile? Cioè, c'è una zona della Sardegna, nell'Ogliastra, dove ci sono, dove ogni anno vincono il Guinness dei primati perché c'è una famiglia, la famiglia Melis, di pluricentenari, eccetera. Salutiamo tra l'altro il sindaco di Perdas de Fogu, in provincia di Nuoro, Mariano Carta. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Quanti siete lì centenari? Cioè, ci può far capire perché lì sono... No, allora... Guardi, per essere precisi, la famiglia Melis purtroppo ha perso qualche componente perché a un certo punto bisogna pur lasciare la vita terrena. A che età? Nonna Consolata ci ha lasciato a quasi 108 anni e nonna Claudia ci ha lasciato qualche mese fa a 103, quasi 103. Quindi, insomma, 108 e 103, se la sono cavata fino... Assolutamente fino... A proposito di Italia, quindi l'INPS credo che abbia pianto perché insomma ha pagato la pensione per molto tempo. Sì, effettivamente. Ma noi su questo ci auguriamo che pianga molto. Speriamo perché, di sì. Certo, perché che l'età media degli italiani si elevi in media è un'ottima cosa, testimonianza del resto che abbiamo... insomma, l'Italia resta un posto da questo punto di vista nelle graduatorie internazionali buono per vivere in media, ecco, malgrado che ce lo mettiamo. No, però c'è una questione molto seria che riguarda la scienza, che è medica, che è anche culturale, cioè in quella zona della Sardegna l'età media è molto elevata, ci sono molte persone rispetto alla media che vivono oltre gli 80, i 90, anche i 100 anni, sindaco, è così. Assolutamente sì. Tanto che anni fa fu fatta una società, fu fatto uno studio per prelevare il DNA della popolazione. E per fare uno studio approfondito su eventuali caratteri di incidentalità e di dipendenza anche di rafforzamento genetico di questa componente. Cioè una maggior resilienza alla vita, dei caratteri fondamentali. Esatto. Magari il sindaco ce li spiegherà dal punto di vista delle condizioni ambientali, mentre ci aiuterà a capire qualcosa delle condizioni anche delle situazioni economiche, medico, scientifica. Tiziano Lazzaretti, che è manager finanziario di Tiziana Life Sciences, buongiorno, ci parla da Londra. Buongiorno a voi, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Azienda che ha deciso di che cosa fare cosa? Comprare proprio il DNA di... Sono brutale se la metto giù così, Lazzaretti. Sì, è abbastanza brutale, anche perché forse è un po' inesatto. Esatto. In realtà noi abbiamo acquistato il diritto di utilizzo di questi campioni biologici, in quanto la proprietà in quanto tale è inalienabile. Inalienabile il diritto di utilizzo di questi campioni, oltre ovviamente a tutte le dichiarazioni, cartacee di consenso, autorizzazione resa dei donatori, nonché, molta cosa molto importante, tutte le cartelle cliniche di questi donatori, anche perché è un elemento fondamentale per capire, cercare di scoprire il segreto di questa longevità da una parte e dall'altra anche per acquisire una biobanca assolutamente speciale, in quanto c'è il vantaggio di studiare il DNA che si sviluppa da generazione in generazione, addirittura risalgono ai primi anni del 1600 e tutto quanto è completamente tracciabile. E questo ci consente di andare a studiare il DNA in una comunità isolata, quindi a basso tasso di ibridazione, oltretutto. Esatto, e quindi c'è una, diciamo, bassissima contaminazione, chiamiamola così, di altri elementi che possano disturbare la tracciabilità di alcuni elementi genotipici. Mm-hmm. E qui è veramente la preziosità di questa biobanca. Sì. Di biobanche ce ne sono in giro per il mondo, ricordo anche, se vi ricordavate, l'indice di longevità, c'è il Giappone che in particolare la zona di Okinawa, che ha un tasso di vita abbastanza molto alto, paragonabile a quello dello Jastra, così come anche in Islanda. Però la peculiarità di questa particolare biobanca si fonda proprio sulla tracciabilità nel tempo. Sì. che rimasta tale in tutti questi dal 1600, dal 1600 ci ha detto. Sì. Però ecco, chiariamo ancora una volta per gli ascoltatori, come si vede è l'acquisizione di un diritto a un patrimonio di dati che serve per approfondire la ricerca, perché certo, quando è uscita la notizia nel giorno dopo sembrava che ci fosse una specie di svendita dei midolli spinali dei No, perché poi sai come l'informazione, diciamo, battiamoci il petto, a volte fa degli sfrondoni per cui la gente, i complotti, ci stanno sequestrando, non sta nulla, più ricerca significa questo. Ma voi, Lazzaretti, esatto, fate questa ricerca in funzione di che cosa? Cosa sperate comprensibilmente di mettere a punto nei prossimi anni, immagino, durerà questa ricerca? Sì, beh sì, indubbiamente. Innanzitutto vorrei chiarire appunto la natura del soggetto acquirente, che è la Tiziana Life Sciences PLC, società quotata a Borsa di Londra, che è impegnata nella ricerca e sviluppo clinico di farmaci mirati trattamento di malattie oncologiche e autoimmuni ed infiammatorie. Ovviamente siamo impegnati su varie patologie, ma il fatto di poter accedere a questa biobanca, e tra l'altro tengo a precisare che l'obiettivo non è quello di prendere questi campioni DNA, le cartelle, e portarle chissà dove, esatto, in qualche recondito paese o quant'altro, ma anzi esattamente compiere il percorso inverso, cioè portare i nostri progetti attuali e perché non svilupparne di altri, innestarli su questa biobanca. Sì. Quindi i nostri progetti sui quali siamo impegnati da diversi anni con istituzioni quali ovviamente l'Istituto Europeo Oncologico di Milano, l'Università di Perugia, l'Università di Cardiff, poi anche un altro, l'Università di Yale, Harvard, vogliamo appunto potenziare ulteriormente la nostra potenza di fuoco, uh-huh, chiamiamola così, in questa ricerca, in questo sviluppo tecnologico, che ovviamente dovrebbe poi confluire a brevetti di nuovi farmaci, sì, ma soprattutto anche trattamenti diagnostici anche. Sì. E qui sindaco, c'è da capire, insomma, se lei ci può illuminare un po' dal, ovviamente dal suo punto di vista, da quello che si dice nella comunità, sui motivi che vi siete prefigurati come possibili di una longevità così così spiccata, così marcata. Forse sindaco Berlusconi direbbe: perché li governo io e mi rieleggeranno a vita. Ma non credo che il sindaco ci dica la stessa cioè cosa. Perché vivete così a lungo lì? Onestamente, intanto faccio una premessa: mi fa piacere che il dottor Lazzaretti abbia fatto una serie di precisazioni, perché le polemiche esatto, su questa vendita sono state veramente molto forti e in alcuni casi veramente improprie. Ci tengo a precisare anche che oltre a Tiziana Life ha il diritto di utilizzo della biobanca anche il CNR, certo, attraverso l'Istituto di Genetica delle Popolazioni, quindi questo per dare il quadro. Rassicurare tutti. Rassicurare, sì, perché, no, certo, perché altrimenti... Ci sono state interrogazioni parlamentari, esatto, sì. Credo l'ex... L'interesse pubblico è totalmente tutelato, quindi non c'è... Sì, infatti cioè, bisogna anche stare un po' attenti a quello che si racconta, perché altrimenti si rischia di dare delle informazioni sbagliate. Al di là di questo, dicevo, per quanto mi riguarda, per l'idea che io mi sono fatto, forse c'è una componente genetica, però non bisogna dimenticare quello che è stato lo stile di vita di queste popolazioni. Io ritengo che ci sia una vita molto povera, una vita dove sostanzialmente lo stress non esisteva, quindi almeno per le generazioni precedenti. E quindi mi sono fatto un'idea che il bilanciamento tra l'aspetto genetico e lo stile di vita abbia portato queste popolazioni ad essere così longeve. Quindi abitudini alimentari sane. No, ma guarda che pochi grassi sani. Mi hanno detto una volta che ho chiamato lì da quelle parti, mi hanno detto: beh, avrà sentito parlare del minestrone dell'Ogliastra. Certo, il minestrone della longevità, che è quasi una leggenda metropolitana. Esatto, io non voglio pensare che il minestrone sarà sanissimo e sarà buonissimo. Posso dire però che non è replicabile, perché qualcuno mi ha chiesto: ma è possibile replicare il minestrone da qualche altra parte? Ma dovete venire a mangiarlo qua. Bravo. Un po' di sana tutela a chilometri zero, quindi esatto, non c'è nessun'altra possibilità di replicare in nessun'altra parte del mondo. Non è commercializzabile. È chiaro, cioè la questione, quindi, sane abitudini di vita, una questione genetica. Credo Lazzaretti che voi puntiate soprattutto sulla questione genetica, cioè a capire, a studiare questi profili e a esaminarli e a cercare di capire veramente quale possa essere il segreto di questa. C'è questo raffronto anche con Okinawa, con l'Islanda. Avrete la possibilità di paragonarli queste biobanche? Paragonarle è un po' difficile, anche perché nel momento in cui vanno a paragonare entrano in gioco altri fattori che quindi non rendono scientifico il lavoro. Diciamo che, di nuovo, ribadisco, il grosso plus di questa operazione è proprio avere, mi lasci dire, una sorta di situazione perfetta, quasi da laboratorio, però in una comunità con un suo percorso, e questo ci permette di restringere moltissimo il campo della ricerca genetica su pochi marcatori genetici. Infatti, in un ultimo, noi abbiamo anche un progetto nella nostra pipeline mirato a una diagnostica nella predisposizione a contrarre il cancro al seno, che cerca proprio di restringere il campo dei marcatori biologici addirittura a 5 soltanto geni, con evidentemente vantaggi di efficacia e efficienza. Efficacia perché chiaramente è più precisa la predizione, dall'altra è più efficiente perché chiaramente andando a lavorare su pochi geni, questo fa anche a comprimere il costo di, chiamiamolo così, di produzione del test, e quindi prezzo all'istituzione sanitaria. Lazzaretti, posso farle una domanda, visto la specializzazione precisa, sì, no, della società di cui, sì, lei è manager? Uno del il il progetto di punta del dopo Expo, questo Human Technopole, di cui non so quanti abbiano capito l'importanza, è proprio nel tentativo di innestare big data, cioè grandissimi server con grandissima capacità di calcolo e di storage di dati, al servizio di un estesissimo progetto addirittura mondiale di banche dati genetici. Allora, posso fare una domanda? Tecnicamente, per voi che operate in maniera internazionale, state a Londra, ma come si vede siete quotati, questo è un sogno secondo lei o è una cosa che è alla portata davvero dell'Italia, che potrebbe davvero tradursi in una cosa di eccellenza? Però una risposta realistica, non una risposta diplomatica che ovviamente uno dice ah bellissimo. No, le rispondo, vabbè, chiaramente faccio un atto di fiducia perché evidentemente da attuali al momento non ce ne sono, però secondo me ci sono tutti, anzi secondo noi, ma parlo a nome anche del management, soprattutto del Scientific Advisory Board della società tiziana, ci sono tutte le premesse, il motivo per il quale noi abbiamo deciso di investire. È vero che è stato molto discusso il valore di acquisizione, che tra l'altro non è stato un valore determinato dall'acquirente, bensì dal venditore. Non dimentichiamoci che Chardinard era in curatela fallimentare e quindi c'è stata un'asta, il prezzo era quello, noi abbiamo aderito e purtroppo non c'erano altri concorrenti. Esatto, e quindi noi abbiamo acquisito. Detto questo, è ovvio che quel prezzo pagato per questa biobanca, che tra l'altro era da 4 anni che era rimasta un po' in una situazione di ibernazione, su questo evidentemente c'è un grosso lavoro da fare, nel senso che quel prezzo sarà moltiplicato per 2, per 3 volte, per vari multipli, perché ovviamente bisogna passare alla fase di... Però lei dice si può fare e bene farlo. Però secondo me sì, questa è l'idea evidentemente. Ovviamente ci sono dei limiti tecnici, come dicevo prima, in quanto la specificità è proprio il plus, no? Su cui poi innestare i vari progetti di ricerca. Però indubbiamente, cioè, anche perché poi non dimentichiamoci che adesso il settore, come quello delle biotecnologie, dove si parla di desinenza omics, si fonda proprio su queste tecnologie, dove praticamente ci sono delle attività che si fondano su questo concetto della genomica, ma per andare oltre, quindi si parla di proteomics, ovviamente l'epigenetica, per cui ci sono delle ricadute di sviluppo molto interessanti e a mio parere molto importanti. Ed allora, è ciò che consentirà a Milan di arrivare a 150 anni di vita. Ah sì, assolutamente. Noi intanto vi ringraziamo Tiziano Lazzaretti, manager di Tiziana Life Sciences, e Mariano Carta, il sindaco di Perlastefogo, grande poligono di tiro dell'esercito. Esatto. Infatti c'è molta gente che ci scrive, sarà quello il motivo per cui vivono a lungo. Non fate queste ironie. Fatele neanche sui 150 anni, non c'entra con l'idea di tornare a vedere un campionato vinto dal Milan. Non gli auguro 150 anni, ma infatti, però magari tra 150 anni riusciamo a vedere una Champions League alla Juve ancora. Chi ne sa? No, questo prima, mi pare che si stanno attrezzando per l'anno prossimo. Me la sono gufata, lo so, me la sono detta. Stanno tagliando l'audio e lo tengono da parte. Attrezzando per l'anno prossimo. Ci chiama Alberto da Lugano, caro sì, Alberto. Hanno spostato la sede, però posso dire, scusa, Alberto, un secondo, una cosa, perché abbiamo lambito l'universo Fiat Juventus. L'eleganza con cui i giornali italiani non saltano addosso alla Fiat che sposta la sede legale in Olanda. L'avesse fatto la Giannino e Co, tu hai idea gli improperi, lo sdegno, gli editoriali, ma se lo fa i proprietari della Juventus, dov'è se che lo fa sede la Giannino e Co? Da Giannino e Co ha sede a Roma, le mie società sono a Roma, quindi pagano le tasse in Italia. Ma invece se lo fanno loro è tutto un anelito di comprensione. C'è questo il cuore dei grandi direttori dei giornali non vibra nello sdegno quando c'è la casa Agnelli Juventus Fiat. Alberto da Lugano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno Giannino, tutto bene? Tutto bene, sì. Senta, volevo parlare del canone Rai, ma giusto per farle un piccolo parallelo con la Svizzera, dove peraltro è un paese effettivamente che si vive molto bene, devo dire, rispetto all'Italia. Sono ormai 5 anni che sono qua e tanti mal di stomaco me li sono già tolti. Immagino. E senta, qua canone costa 450 euro lo so. E tutti lo pagano, quindi non c'è discussione in merito, anche perché se ritardi qualche giorno ti arrivano 20 euro in più di tasse, quindi è meglio pagarlo. Però ecco, io mi chiedevo questo: visto che in Italia questa tassa è legata al possesso della TV, sì, sarebbe curioso se qualcuno si mettesse a fare il noleggio dei televisori, perché vorrei capire a quel punto, visto che la TV non è più il tuo possesso, come devi pagare la tassa del canone. Ma la RAI, per la RAI sarebbe uguale, perché tasserebbe il noleggiatore per ciascun apparecchio, quindi in totale la RAI trova il modo. Guarda, si figuri, non è facile aggirarla così. Ce la facciamo, Matteo da Roma, per chiudere. Matteo, sei rapidissimo. Lei è un dirigente RAI, ci dica, lei è un dirigente RAI. No, non è un dirigente RAI. buongiorno a tutti. No, volevo fare un commento sui stipendi degli enti dei dirigenti pubblici. Ci dico. Che a mio parere in molti casi è assimilabile al privato, se non di complessità superiore. Immaginate, non so, il sindaco di Roma, per eterogeneità di processi da dover gestire, da trasporto pubblico locale, i servizi sociali, tutta la parte di polizia municipale, cioè diventa un'azienda con quel numero di dipendenti, per budget gestito, di grandi dimensioni. Quindi sta spezzando una lancia a favore del fatto che siano pagati così tanto. Sta spezzando una lancia, sì, su questo. Matteo, però la dobbiamo concludere qua, perché altrimenti io i miei dubbi, però sarebbe, ne parliamo in un'altra occasione, caro Matteo. Se volete chiamarci anche domani, intanto questa cosa. Poi quando vedo dirigenti. Matteo, io oramai. Vabbè, insomma, andiamo a chiudere. Ciao, ci vediamo domani.